Friuli nel mondo, 144esima trasmissione dedicata agli emigrati, canzoni friulane moderne. Abbiamo il piacere, cari radioascoltatori, di dedicarvi oggi un secondo gruppo di canzoni friulane moderne, che per la prima volta sono state eseguite in occasione della sesta edizione del Festival di Pradamano e che, come le precedenti, hanno riscosso applausi di pubblico e consensi di critica. Con l'Orchestra Friulana della Canzone ascoltate la voce di Silva Balanza, che esegue di Romano Donato la composizione dal titolo Che Valade. Mi batti il cuor di Guido Michelutti e Claudio Nogliani viene interpretata da Edda Pinzani. Metti su quattro ballotti sacca il ben e il mio moros alle pielle cence foti si è tan savie la sciopo. Già di fuori il ciel si imbrune, al mi bat il cu. Qui sa mai c'è caluldimi, te urele plan planchin. Qui sa mai se all'uldami di spindon un biel basin. Già di fuori il ciel si imbrune, al mi bat il cu. Qui sa mai se all'uldami di squindò il basin. Du la vino di sentalu lumetin don geloso. Parco puoi di ben cialalu, lui all'elnio prin amor. Già di fuori il cielo si imbrune, al mi bat, mi batti il cuore. Già di furi c'il simbrune, al mi batti il cuor. Qui sa mai se all'uldami, di squindon un biel basin, di squindon un biel basin. Giorgio Noacco esegue la canzone dal titolo Il Prinsì di Aldo Nimis e Dino Sala. Che biele musute color caffè là le ha fatte il sorelli ardin dalla sta, le hai salutate visto di solda di voci e voltate e voi a lampà così di che il cu un simile rivà clar senza su su ardin come li sta. O ciare musute color caffè là le ha fatte il sorelli ardin dalla sta. Doman o murute o ven la di te o ei viti dute morute par me. Musute color caffè là le ha fatte il sorelli ardin dalla sta. Io le hai salutate e ho ven la di te o ei viti dute morute par me. Nell'interpretazione di Silva Balanza, ascoltate Inviar Talanime di Marco Marra e Giulio Moro. Salane fa si e voiave, su paiar bui tra i ramas, e la voste contanute, e prendude. Pese in fila cise assisin passaciulan il gran vin di tramontane calci pierde gnoccalan ma la nef che è vignude è aglassata in certo cur tornare la primavera a portuate di un star di besol donge di ricordi cence pas i miei di spassas insieme che i momenti che tu sas. La primavera, a portuate tim staur, a pur tuati ai timps da Non si reste, di Guido Michelutti e Ottavio Paroni, viene ora cantata da Edda Pinzani. Tutti il montal alle fiere, alle dome un traffica, duce ampore calettiare, so di pis, fei di mangiare. Non si può di accontentarsi, sono viti smodifà. Non si può di accontentarsi, sono viti smodifà. Non si reste, non si dure, balari, sin ogni dì. Va via la sepolture senza crodi di partì, mai nessun la porta via che il pagno ta sparagnar, ma lassà alla allegria se van a gorne, si scombat per guadagnare, si vorres già la forme par no bevi e no mangia. Non si può di anquietarsi, sono vitis modifà. Di alcuietà sì, sono viti smodifà. Ed infine Edda Pinzani e Erbionte Tessarin cantano Tic Tic Tic di Lucia Scozziero e Sandrino Cimiotti. Quan cal pluf se gus la vie sot l'ombrene duci doi. Sinti donge lame frute, ci si cai, luz dai miei voi. Tic, tic, tic, li sgoti scianting. Tic, tic, tic, i sieta cus. E cui pis dentri li sporci, sorridi come doi frus. Tic, tic, tic, li sgoti. Alba fuarti il nestricù. Io ti brami, io ti adori. Busse, busse, calescù. Sot che il cil di serenere simborece anche l'amor. E par soli con di nuve mi fa bene un calor. Thank you. ti brami, io ti adori, busse, busse, cale scur, busse, busse, busse, busse, cale scur. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.